beh già. Mamma Lugariello. E beh Claudio. Dove sei? Giù la manina. Eia. Giù giù giù. Cazzo che proprio poco a poco si muove la lago del delle stazionarie. Aspetta. Poco poco, no. Poco poco a poco. Ah ma non sei contento. Senta la neva di scillucci, Siccome prima ero un poco più alta, allora l'ho toccata appena appena, ma poco a poco, perfetta. Già l'avevamo regolata, ma guarda che la tocchi un casino con l'antenna. Sei una bru Gianni. Boh, il bip l'ho sentito prima. Io ce l'avevo acceso, ho sentito a te. Sono entrato a salutarti. Io mi sono già lavato, in pigiamaggio. Cazzo, siamo pannuzza. Abbiamo avuto lo sguantino con Marina. E poi quando abbiamo fame ce li amo. Ah, io c'ho tutto pronto. Finto poco fa di cucinare. I gamberoni, un po' di insomma, antipasti. Tutto. Porcetto non ne ho fatto tanto, lo facciamo domani a pranzo. Comunque la mangiare già ce n'è. Sì, sì, ne ho messo due bottiglie. Ho messo due bottiglie di torbato in frigo. Sono già ghiacciati, stanotte li porto la veglia, me la futti nuda, non si può uscire, non si può fare niente, e allora me le bevo. Fai bene, vedi la futti, fai bene. No, noi non facciamo niente. Marina ha fatto un... Che cazzo, Graziano, buffo, la matta dell'infaria. No, 50 mila volte me l'ho mandato, non ci avete. Fissato, cazzo, questi bambini nudi, fissato, ma vaffannavoli. No, lei, Marina ha fatto uno di quei cosi che mangia tutto, con, ci ha messo in mezzo, patate, prosciutto e mozzarella, e sugo. Di uno di quei cosi rotoli, dai, di sfoglia. Ah, è buono, buono, molto buono. Sì, li ha portate l'aria dal bar, due bottiglie di torbato. Il vino bianco di quello buono, adesso per l'armadio dopo che portavo il cane saliva, capito? Si è fatto il permesso per venire qua, tanto dorme qua, quindi dopo che non c'è nessuno, adesso 7:05, ma dopo che porto il cane salgo. E niente, noi siamo in quattro Mattessi, quindi niente di che. Lo so. E noi siamo in due, anzi in tre, perciò non c'è problema. Lo facciamo tutto domani, là, l'agnello, tutto quello che c'è da fare. Già abbiamo comprato di cose, ce n'è a voglia. A voglia. Poi abbiamo spumante, vino, che ballacche, vinne, già vinne. A Kent ne abbiamo due bottiglie, quello è molto buono, c'è quello dry, o di cazzo di giamma, poi c'è quello normale, vino, già vinne, a birra vinne, la mangiamo a testa, non è proprio una frutta, un fandura. Sì, c'è frutta, frutta secca di tutto, ma poi io mi stufo. Con giornate del genere poi c'è Anna ancora così, col piede appeso, quindi... casino e basta. Vabbè, vediamo al prossimo anno se va meglio, beh. Cosa devo dire, mamma, ragazzi, guarda, tu cazzo glicemia alta. Sta dando, sta lagando un po' troppo, poi più vai peggiore è un casino, Se continua così, quella ci lascia le penne. Infatti ho chiamato anche la... via la... come si chiama? La Palazzo Rosa. Ho parlato con uno, gli ho detto passa così e così e così. Gli altri signori, guarda che li sta rischiando, si sta ammazzando con le mani sue. Cioè non ne vuol sapere praticamente, è da mania di tutto così. Ci confermo. Non vuole vivere. Non vuole vivere. È un casino. Quando è così proprio ne ha fatti più nulla. Vabbè. Cosa vuoi che ti dica? Non ti posso dire niente. Non ti posso dire niente. Grande, quindi deve pensare che se vuole vivere deve cercare di fare quello che dicono i medici, se no arrivederci, buon viaggio. Lo so, lo so. Infatti adesso appena finiscono le feste vado subito al comune per fargli mettere la pietra doccia, perché sulla vasca non ce la fa più a salire. La dovevo fare per forza, sono costretti a farlo. Sono costretti, sì, i lavori devono fare loro. Adesso vediamo l'anno nuovo, adesso non fa. Speriamo bene, dai, che siamo un 2021 migliore, là. Speriamo. Vediamo un po', speriamo bene, cosa vuoi ti dica? Hai visto ieri come stavo facendo sta radio? Una rottura di balle. Di nuovo il cavo di collegamento dal commutatore d'antenna. Cazzo, mangio le balle bene il TBL. Sì, sì, è a posto. Cavo di collegamento dal commutatore all'antenna. Tre volte l'ho cambiato. Non ne ho neanche uno più di quelli. Adesso me devo comprare e ordinare di nuovo dopo Natale tutti i PL nuovi, perché non lascio più manco uno. Ho dovuto mettere tutti i PL, quelli buoni, dentro, all'interno, per questi cazzo di PL che vende Fusaro. Una cosa, una gaggata che non ve ne aveva detto. Fanno due, tre passaggi e poi vanno in corto. Vabbè, non è fanno due, tre passaggi, dipende da come si fa anche il PL, capito? Basta un filino di merda. Come si dice? Un filo di massa, di massa, e ti manda il PL in corto. Infatti volevo fatto uno spezzone dell'altro, non vanno bene, capito? Infatti questi qua neanche vanno bene, perché hanno quel coso, quello che si avvita, diciamo. E quello va bene solo per il 58. Infatti l'altro 58 lungo è più grosso. Ho dovuto nella pratica fare sottile, perché altrimenti non passava. Io non ne uso il RG58, questi sono spezzoni che avevo già da tantissimo tempo, erano dentro il cassetto. Non ne uso io il RG58, ho già con gli HF il RG58 lo sto usando adesso per fare i collegamenti interni, non esterni. Esterno io ho la K1000 che arriva all'antenna al commutatore. Dal commutatore, siccome è troppo grosso per fare gli spezzoni grossi, ho messo le RG58, ma ce li avevo già pronti, spezzoni da 3 metri, da 4 metri, con quei PL bianchi, e non servono a nulla, perché hanno funzionato per quanto? 15 giorni, 20 giorni, e la buia 1-1 sono andato in corto a rasura, cacchetto la Tuccati. Non ne ho fatto io di PL RG58, non agio, capito? Quindi è tutta roba che avevo, e sono tutti quei cazzo di PL che avevo comprato a Fusaro chissà da quando, e sono andati tutti in meno a mare, e quindi ho dovuto comprare 10 metri del RG58, quello buono, e rifare tutti i collegamenti nuovi, PL nuovi, ma mettere PL quelli che avevo io dentro il cassetto, quelli buoni, quelli che uso per esterno, capito? Addirittura ho dovuto mettere anche un afano, perché non ne avevo altri, quelli marroni, e quindi mi si girano un bel balle. Non so, vabbè, magari come l'ho conservati, sai com'è, no? Adesso, casino la CPL qua. Infatti quelli buoni. Io ne ho uno buono, ma l'ho lavato la manima di Tore Alan Verde, quelli in cose, in ceramica. Lo so, ceramica. C'ho lo spezzone del TL922 ancora io, il vetro, l'ho già tratto liscio, è da 1,50 m, ma non lo uso quello, è sprecato per i baracchini, proprio in vetro, sono PL in vetro ad alta temperatura. Solo quello spezzone costa una barca di soldi, però era in dotazione con l'amplificatore, capito? Della Kenwood, cavo grigio, è un, mi pare sia un H110 grigio, adesso non mi ricordo, un H100 grigio, vabbè. Però adesso va bene, no, mi gira le balle, perché cioè vendi le cose e poi vendi mondezza, perché quei PL li ho già detto l'altro giorno io a Fusaro, c'era Antonello e anche lei, Marzia, gli ho detto guardate questi PL stanno difettando, non servono a niente, avvisate l'azienda che non servono a niente, capito? Dice questi ci mandano, vabbè questi ci mandano, però tu ci vendi mondezza. Cosa? Braccio, ti sento, chi è? Mi senti, amica? Ciao, mi senti? Io ti sento male. Se ti senti male vai all'ospedale. All'ospedale? Non mi fanno entrare che c'è il Covid. Hai detto che ti senti male. Ti sento male. Come mai mi senti male? Non lo so, dipenderà da te sicuramente. Come mai hai detto? Ma come è mio e tuo? Ah, io già ho il microfono. Che microfono? È questo qua, cosa c'è qui? Che vuoi sono qua? Non si capisce niente. Boh, io lo sento male, ma non so chi è. Attenzione, amici, cavolo! Attenzione, carabinieri, che ricordate qua, capito? Cazzo, come tende a farvi male il coronavirus, cioè, eh? Mi sa tanto che lei giunto qua, che non respira male, mi. Devo mostrare la pizza rosetti a casa, cosa ridere? E infatti, gli arrabbiamo buona con tutti questi malati. È una medifella. Ah, ma è poco meno frutti, guarda, abbasso il volume, non mi interessa proprio più a me, ma te la mela dai bitti, si può uscire normalmente, invece va a brutto e buco, si capisce niente, cosa ne so io chi è? Cattolino, e beh, non parli, eh? Non parli? Vai, o cuomane. O cuomane, sei tu che non te lo dice. Allora sei drogato. Ebbene, Natalia, mi illustra quando te l'ho operato. Insomma, così. Allora devo andare a far miracola. Di cuidare sempre via la giubilia da Roma che stanno. Hanno orribili. E l'altra quale? Mi devo operare all'ernia che mi era uscita, no? Mi sa che noi non andiamo in macelleria a comprare solo, finiamo pure noi dai macellai. Non lo dia paura, a me gli hanno cucito 3 pugnalati. Anzi no, 4. Io. 4. Vedo un casino. Bel casotto. Vabbè, dai, comunque non penso che stai peggio di prima. Stai un po' meglio, non stai al 100%, poi già stai meglio, dai. Sì, adesso aspetta a riprendermi bene, quando mi riprendo bene vado e mi faccio fare l'esame. Vado lì stesso, già siamo d'accordo con quel dottore. A fumare è ripreso, no? Isso. Io c'ho due simulà. Mando quella che ti aiuta molto. No, a me la sigaretta mi buttava a terra proprio, per carità, nonno. Quello sarà il mio ultimo pensiero della vita. Guarda, vabbè, tu non bevi Natale, vero? E cosa dico? Sono come un diabetico. Vabbè, era mancriati se mi è giunto il diabete. E cosa devo dire? Mamma, la salive la via 409. Perché stai esagerando, perché ormai la pastiglietta non fa più effetto, perché se fa le 3 insuline, di cui colazione, pranzo e cena, ok, ci sta, ci aiuta, ma con la pastiglietta ormai non ce la fa più, un casino, infatti io ti sono regolato, infatti ho chiamato lì all'ospedale, gli hanno detto che stava rischiando di brutto, sta rischiando, si sta ammazzando con le mani sue. E come c'è mamma, è la maradia, è ripasi di fame, mangia di tutto e non c'è la regola. Mamma è diventata burgica dal diabete, mi sa di credi. Ha avuto il distacco della retina, ha avuto, va via sempre la glicemia alta. Se una volta alla una all'ora di mangia, va via la glicemia alta, 500. Non so cose belle. Mamma aveva via 400 nuovi. Infatti invece di fargli 20 unità gli hanno fatto una trentina, mi sa. Sono un casino, perché quella lì è lenta, capito, quella della notte. Sì, già lo so, anche io ho fatto quella lì lenta per la notte. Però io ce l'ho sempre bassa. Penso, dico, vabbè, me la misuro io, giusto così, no? Io mi sono misurato la pressione, cioè 102,77, diciamo la alta un po' bassina, invece quella bassa, diciamo la andava bene, 77, comunque niente, poi mi sono misurato la glicemia, cioè 80, ed era bassa alla fine, e mi sono mangiato mezzo cucchiaino di zucchero, penso che sia poi ritornata normale. Sì, ero grido, con lo zucchero la stava subito. Cosa vuoi ti dia? Stai attento pure tu a quello che mangi, mi. A chi si mamma due così, occhio. Io ti raggiudirata sempre a chi mangiava a regola e tutto, a chi in famiglia mia erano tutti diabetici. E allora lo so. prima o poi mi sarebbe toccato. E mi è venuta questa pancreatite e purtroppo ha scatenato il diabete, non c'è nulla a fare. No, vabbè, già mangio abbastanza regolare, dai. Avanti, Cla. Attenti, prima se non c'è niente da fare, no? È un casino, basta. Gappa, gappa. Ecco, gie. Oh, ripeto un attimo che vado in soggiorno. Ma vabbè, là, vi faccio gli auguri io, perché già lo sapete che a Fabilla non andava bene. Ci sentiamo alle prossime, ti auguro una a tutti, dai, anche a quelli che sono in ascolto. Ciao Natalie, auguri anche a te, dai. Buon Natale, è tutto, già ci aggiorniamo un po', ciao, grazie. Avanti. Eccomi, mi senti Giulio, ciao. Sì, ciao, sì che ti sento, certo. Avanti. Magari però non sai chi sono. Boh, vabbè che io ogni tanto accendo un 14 e poi ne accendo un altro e poi un altro ancora. Caro Giulio, va bene. Ma mi ricevi bene come segnale, sì? La modulazione è decente. La modulazione è buona. Il 9 più 15 per Marco è ultima, non c'è problema. Per forza, o ti dico che accendo un 14 oppure accendo un altro. Va bene, dai. Adesso l'avevo lasciato acceso un bel po' di ore, sono salito a vedere se ero già da un'altra parte, ma poi ho detto fammi vedere se funziona bene e sembra che vada bene. Questo è uno di quei vecchi carrettoni, ma è vecchio, ma è nuovo esteticamente, cioè i suoi anni, ma devo dire che sembra un giovincello, sembra appena uscita la scatola di Natale. Un Telsat SSB 140 giù, con quello che è tutto cromato, con l'altoparlante nero, col frontalino digrinato sul lato sinistro e due strumenti. Molto bella, mi è sempre piaciuta e va sempre bene questa radio, non è niente di spettacolare, ma insomma piacevole, funziona bene anche nelle bande laterali. Sì, sono apparecchiature che vanno molto bene quelle, io ne ho un altro di Telstar, però non mi ricordo, forse 123, boh, non me lo ricordo adesso il numero, devo dire che ha sempre funzionato bene, non c'è problema Marco, va benissimo, sì, ripeto, la radio è l'ultima. Non c'è problema, il segnale più che buono, 9 più 15, per cui meglio di così. E tieni presente che la mia antenna non è piazzata molto in alto, per cui il segnale, e ti sto dando comunque un segnale serio, perché sto usando un professionale, per cui va bene così, non è il solito baracchino. Sì, questo è leggiù, dalla modulazione l'avevo capito. Niente, veramente, sì, questi davvero, anche io l'avevo constatato, questi Lafayette, Telsat, generalmente un po' tutti sono andati bene, magari non hanno avuto un grandissimo successo come tanti altri radio magari, però anche Walter, io di questi ne avevo avuto anche un altro, che poi l'avevo venduto, aveva dei segnetti, ma era bellissima, però aveva dei segnetti e mi dava fastidio, l'avevo venduta. E ne cercavo uno bello nuovo come questo qua adesso, a parte gli scherzi, sembra veramente che ho aperto la scatola adesso perché è perfetto, è fiammante, con il suo microfono originale, ti dico, sembra veramente acquistato stamattina. E ogni tanto ci tengo, infatti uno di quelli che ho più attenzione, lo faccio funzionare più spesso rispetto ad altri, che invece devo dire ce ne ho certi che sono spenti da tempo e non, per quello rimangono un po' in disparte, mentre questo qui mi piace e periodicamente sempre lo tengo così, uno, due giorni, tre giorni acceso, ogni tanto magari faccio così un paio di passaggi, un po', poi faccio qualche prova così, per fare funzionare anche poi i finali. Va bene, dai, allora sono contento, funziona. Allora posso scendere giù per continuare a preparare la cena. Ma non ti dico, ma lo sai che cosa mi è successo oggi? Una cosa allucinante. Dimmi, oh Marco, sono curioso, adesso mi hai incuriosito. Aspetta, prima ti voglio fare una domanda io. Quello che ho io, il Testal, non so se anche il tuo è così, per la ricezione ha bisogno che ci sia inserito il microfono, se no non riceve. Confermi che anche quello è così, non so se sono tutti uguali. Ok, avanti, poi sono incuriosito da quello che mi stavi annunciando. Sì, uguale giù. Questi qui c'hanno sempre quel problema lì, che se gli stacchi il microfono non riceve. Sì, c'è una sorta di piccolo cortocircuito nel connettore, c'è quel connettore, neanche quelli tipo microfono che usiamo normalmente su tele radio, ma c'è quel connettore D che è più un connettore impiegato per connessioni di altro tipo che non quelle per un uso microfonico, anche perché magari sottoposto a trazione del cavo si può, non avendo blocco nessun niente, si può staccare. E giù, niente, avevo le ragazze, ho lasciato la porta aperta, e non sono scappate giù in discesa verso via Grazia Deledda, non ti dico, col cane le inseguiva. E allora niente, per stasera un giro di patate. Allora sono quella che ho trovato io. Bella questa, allora hai fatto un'uscita fortunata Claudio. Sì, anche mia moglie ha fatto quell'errore, ha lasciato il forno aperto e è scappato il porcetto, però diciamo che ho fatto una volata anch'io come ex corridore e dunque l'ho raggiunto e l'ho ripreso, non c'è stato problema. Avanti Claudio, ciao. Sì, ciao, mi stavo preparando per portare il cane. Ciao Marco, un abbraccio e tantissimi auguri per la vigilia di Natale. Giulio, ti ho mandato anche a te il messaggio. Siamo in ottima forma, sì, anch'io sto andando con, io però sto andando col Midland con il 574, 78574, come la vetrina, poi ne ho tantissimi di nuovo, c'ho anche il Boni 23, tutti base Marco, c'ho il Pace base, il Linoit base 294 nuovo che mi ho ripreso, uno l'ha volato a te, ma bel dati, non si tocca. Sto riprendendo quota nuovamente con i vintage e questa ti dirò che è quella che mi piace più di tutti perché è molto bella. Poi c'è anche le bande laterali e 40 canali con le bande laterali, quindi va bene, a differenza degli altri che sono tutti 23 canali. Va bene, il cambio per Marco e spero stia uscendo bene, altrimenti Giulio mi avrebbe detto qualcosa. Cambio per te Marco, ascolto il finale e poi vado a portare il cane, così una volta che ho sistemato a lui ci sistemiamo anche noi per la cena. Per modo di dire, giornata come gli altri mi sembra quest'anno, va bene, cambio per te Marco, avanti. QSL, non ci sono bussate, riprende per il QSO Marco Scorpion, anche qua, l'uomo del monte. Così è, ciao, buonasera, ben sentito. Intanto hai fatto bene, perché se non c'hai qualcosa di queste radio da fare, a parte che poi anche un po' è sempre divertente, ti tiene sempre un po' sul petto, rinnovare, provi, cambi, fai, come capita. Va bene così, è questo della radio, una malattia, si è malati e bisogna curarsi, per curarsi bisogna comprare e vendere. Va bene, modulazione ottima, pizzicata come sempre, non lascia stare, non toccare niente, va benissimo. Se non dici che radio è, potrebbe essere qualsiasi radio, ma con l'MC60, perciò ottima emissione. Molto bene, anche io vado perché non vorrei che, visto che le ragotte te le hai beccate tu in discesa in via Grazia Deledda, allora vado a controllare che le patate stiano cucinando bene, e bucce tutto. Ci sentiamo, ciao a tutti, buona serata, un saluto anche a chi è in ascolto qua sul canale 10, buon Natale, magari ci sentiamo ancora nei prossimi giorni, intanto siamo carcerati, perciò l'unica cosa che possiamo fare adesso è sempre più è ritornare alla radio. Ciao Giulio, ciao Claudio, ciao a tutti. Marco Scorpio, l'uomo del monte, con la manina su dall'alto, dalle alture di Tirighetto, passa in QRT. lascio la radio accesa ma vado a continuare la cottura. Ecco! Registrato il brecco. Ciao Marco, salutoni, è stato un piacere di ascoltarti, fatti sentire spesso, noi di solito siamo sempre qua su questo canale, il nostro canale preferito, visto e considerato che tutti quanti sappiamo ormai dove ritrovarci, è su questo canale. Senz'altro, dai, ti mando avanti prima Claudio per i saluti e dopodiché faremo entrare il break, dai. Buon Natale comunque Marco, alle prossime, dai, tanti saluti anche in famiglia, ciao. Avanti qui Claudio. Sì, registrato il break, ciao Marco, un abbraccio a te famiglia, tantissimi auguri. A presto, riascoltarti. Mi è entrato anche l'altro giorno a salutare, di tanto già fa capolino magari quando è in giro in macchina. Ciao Marco, a presto. Avanti il break. Salutone a tutti, salutone anche a Marco Scoppio, l'Antonio Bombolo, Ma stai vendendo patate? Sì, oggi è festa, oggi a casa. E ma non dirai che mi ci vede Giorgio, vai Giulio. Ok, ciao Antonio Bombolo. Sì, infatti, hai assunto la tonalità di un pescivendolo o di un futivendolo, con quella tonalità così ad altissima voce. Ti sentiamo lo stesso a tu. Oh, non me ne dai fastidio, non me ne frega niente, puoi parlare, gridare quanto vuoi, tanto sei a casa tua, per cui sei padronissimo di fare quello che vuoi. Ok, a tu, riprendi, avanti con la buonasera. Capo, volevo salutare a Marco. Ciao Marco, Antonio sono. Ciao, ti ho riconosciuto a tu, e come faceva a riconoscerti? Sei unico, sei un pezzo unico esemplare. Ciao a tu, tanti auguri allora, tanti auguri, buon Natale a te e alla tua signora. Ma nei prossimi giorni ci sentiamo, tanto siamo qua chiusi a casa e non possiamo fare altro se non che accenderci la radio. Buon Natale, buon Natale, buon Natale a tutti, mi raccomando, fate da bravi e non mangiate troppo. Riprendi Antonio e fa girare, scendo che sennò si bruciano le patate. E cappa, io vado giù in gamba, mi l'ha già appena sudate. Cappa, si sente la musica, oggi Baldori a casa. Cappa, dai, vai Marco, non ti preoccupare, dai. Cappa, QSL, bene tu, ehi gamberi, c'erano le ragoste, ho detto prima, ma non eri in ascolto, ho lasciato la porta aperta dell'ingresso e ci sono scese giù in velatiere, dammi, se era beccato Claudio che stava passando lì, e allora niente, allora un giro di patate, ma sono buonissime, buonissime, se sono fatte bene sono meglio della ragosta, riprendi qua, ciao ciao. Ciao Marco, ciao, sei fatto male. Ha patato, quindi possiamo continuare a mangiarle, dai. Sì, io vi lascio, do il cambio a Giulio, ciao Antonio di nuovo, ciao Marco, se mai ci sentiamo dopo giù che vado a portare il cane, dai, sono già le 7:30, ok? Se no poi si mette a piovere e faccio un casino. A dopo, riprendi Giulio. Ok, ciao Claudio, allora salutoni, ciao di nuovo Marco, ancora rinnovati gli auguri per un buon Natale. Dunque sperando di risentirci molto presto, eh? Ok, avanti Antonio, e allora sei in Baldoria oggi? In Baldoria gioco, ha già pigliato uno di chi si vini, non so se l'ha mai bevuto il dubbio, diciamo la riuscita, diciamo, a ragosta. Già lo conosco, sì, quel nome lo conosco, non c'è problema. Lo conosco, non molto spesso, ma già lo conosco anch'io molto bene, non c'è problema. No, quello io lo interpello domani, quanto. Per oggi altre cose patate, come stava dicendo poc'anzi Marco, anche qui, e chi lo sa, boh, staremo a vedere, comunque. No, perché ha lasciato il forno aperto, mia moglie si è scappato il porcetto, quanto, e allora ci dobbiamo accontentare. Patate arrosto, salute. Avanti, ti prenda tu. Scappa. Ehi, no che ho fuggi, no, io che vi gioco io alla cuzzina. Mi ha piacciuto un cazzo di cosa, di... Come si chiama? Di Camparoni, L1. Ok. Sì. Io ne ho pagati 25 euro, gli ho pagati una scatola da dottini. Oh, naturalmente si sa, sono quelli surgelati, è ovvio, no? Però devo dire, io li compro spesso, li compro sempre lì da panna, come si chiama, panna pesca o una cosa del genere, un negozio che c'è qua nella terra. Ma devo dire che mi sono sempre trovato bene, sono belli, belli grossi, L1, certo, sono quelli autentici argentini, vanno molto bene, mi soddisfano, insomma, ecco, avanti anche tu. No, già, me l'hanno detto tutti, me l'hanno detto, io li ho presi da una parte, ma sono buoni i berommi, me l'hanno detto tutti quanti, me l'hanno detto. Sì, io li compro molto spesso, perlomeno quello, sono gli unici pesci congelati che prendo, perché, anche perché intanto li prendi e poi li metti in frigo, cosa succede? Che non saranno mai freschi, saranno sempre congelati. Perciò, no, ma poi devo dire, come li fa mia moglie specialmente, sono molto molto gustosi, soddisfano, insomma, ecco, soddisfano. Sono belli grossi e non sono molto costosi, tra l'altro, dai, anche se dobbiamo considerare che sono congelati, e sono 25 euro la scatola da 2 kg, però sono belli, belli, belli, puro sangue argentino. Zizi, pure che si caccia un bigliato, io sono argentini, però mi hanno detto che fanno pure il boi, altre cose buone in Kibe. Me l'ha detto il mio principale, me l'ha detto, prenditi lì che la roba è buona. Sì, ma guarda, se proprio vuoi scegliere, se te devo consigliare un negozio, vai lì, di fronte al mercato ortofrutticolo, Panna Pesca si chiama il negozio, e lavora molto anche, tra l'altro, è sempre pieno di gente, infatti tantissime volte bisogna fare anche la fila alla cassa, pensa un po'. No, è un negozio che piace alla gente perché ha prodotti buoni, dai, veramente. No, io vado lì praticamente quasi esclusivamente per i gamberi, non per altre cose. Per altre cose vado al mercato, per altri pesci vado al mercato. Roba fresca. Siccome quelli al mercato sono un po' proibiti, hanno sempre il cartello di squalifica rosso, capito? Noi il bulbagà a 45 euro o anche di più tante volte, anch'io, quando poi li porti a casa, li metti in frigo, è praticamente come se li avessi presi quelli congelati a tu. Allora cosa è secondo me? Ma cosa? Noi che ti bruci abitano, pigliati a che goce. Oia. Va bene, dai, io ti devo lasciare, Giulio, dai, mi dispiace che non posso trattenermi. Devo scendere giù, devo fare delle cose di casa. Quindi ho acceso giusto perché capito. Vedete, buon Natale a tutti. Dai, ce la risentiamo domani, dai. Domani saremo a casa, dai. Mi fa piacere. Ok, Antonio, d'accordo, dai, avremo modo di sentirci domani eventualmente. Avete considerato che ormai siamo agli arresti domiciliari con questo sistema governativo. Comunque, va bene, non c'è problema. In famiglia si sta bene. Ciao Antonio, grazie per la chiacchieratina, alle prossime, dai. Sai che eventualmente, se non ci sentiamo domani, ma spero di sì, ti faccio i migliori auguri di Natale, dai, alle prossime. Ciao Antonio, salutami anche tuo padre quando lo sentirai, sicuramente sarete insieme stanotte, non lo so, ma suppongo di sì. Ciao Antonio, auguri a te e famiglia, ciao. Sono già in casa, no, non c'è problema, già c'è la compagnia, pure lui, anche dopo 2 anni che mia madre non c'è più, già sono cercata la compagnia. Ah, questo non lo sapevo, non lo sapevo che tua madre non c'era più, anche veramente, guarda, non lo sapevo, e mi dispiace, ma purtroppo la vita è questa, ma non era molto anziana, sapendo l'età più o meno di tuo padre, suppongo che nemmeno tua madre era così anziana, cosa aveva, è stata malata? Sì, è stata malata, dai, mia madre c'aveva più di... 51 e lui era del 61, ci sono 10 anni di differenza da uno all'altro. Certo che era giovane, purtroppo la vita è anche questa, cosa vuoi fare? Non si sa, sappiamo quando si nasce, ma non si sa quando si lasciamo questo mondo. Va bene, dai, ci sentiamo di nuovo rinnovati gli auguri, alle prossime, ciao, a domani se coincide, ciao. Ciao Giulio, dai, ci risentiamo, adesso continuiamo a bere il vino. Ariusha! Ciao. Ok, ciao a tutti, ciao. Avanti, vicino di casa. Sì, ciao Giulio, vicino di casa, ben sentito. Saluti a Antonio, ciao Antonio, ben sentito, e ci vediamo domani in casa, la buona a te in famiglia. Benissimo, volevo salutare anche l'amico Marco che è ascolto, Marco Scoppio, ben sentito, buona tarde a lui in famiglia. Avanti Giulio. Ok, ciao. Ascolta, piuttosto, stasera ho sentito una notizia un pochino triste, ma è vero che Bacchesi è ricoverato in ospedale? No, adesso è a casa, è già, diciamo, 5 giorni a casa, io sto passando ogni giorno. Oggi sinceramente l'ho visto meglio, diciamo, là. Oggi l'ho visto meglio, l'altro giorno era, guarda, ne sono, diciamo, mi viene il coso, sto parlando, perché era proprio verso mare, è andato con le gambe, diciamo, là, stava bene, è tornato dall'altro posto mare, l'ha aggabbato là. Vabbè, no, sai, perché mi ha dato la notizia, mi ha dato, infatti non sapevo niente, ecco appunto il motivo per cui non si sentiva più in questi giorni, né lui né nessuno lì sul canale 23, c'era ammutinamento totale sul canale 23. Vabbè, mi dispiace. Sì, l'ho sentito, però vabbè, devo chiamare io casomai. Stavo rispondendo a mia figlia che mi ha squillato il telefono. Giù. Capito, Maria? Mi dispiace, dai. Comunque già sta bene, voglio dire, è tranquillo. E diciamo giù, diciamo che diciamo siamo in passaggio, abbiamo dato quasi sia un mese, due mesi, da due a quasi sia quattro mesi, e al momento all'altro, diciamo, ma è molto messo male, diciamo, lui era tranquillo, c'era dei dolori alle gambe, stava iniziando a non camminare bene alle gambe, gli ha fatto la lastra non c'era niente, il dottore, e gli ha detto attacchi, dall'attacchi infatti c'era qualcosa, abbiamo potuto fare un attacco con contrasto, infatti c'ha un tumore alle ossa, e più dalle ossa è stato anche il polmone, diciamo che l'ha mandato a casa perché non c'è niente da recuperare, in poche parole. Caspita, mi dispiace per Battisio, mannaggia la miseria. Mi dispiace veramente, è un amico, ci conosciamo una vita, ci conosciamo. Porca miseria, non è possibile. Vabbè, purtroppo il destino è alle volte crudele, la vita anche è crudele, soprattutto la vita è crudele tantissime volte. Mi dispiace veramente, guarda. No, speriamo bene che ti allunghi più a lungo possibile. E speriamo di sentirlo ancora in radio, significherebbe che magari avrebbe un pochino di tregua a riguardo di questo problema qua. Io, tanta madonna, e vabbè. E voi, in famiglia, tutti quanti stasera, naturalmente a numero limitato, come tutte le famiglie d'Italia. Guarda, siamo esatto, io, mia moglie, mia figlia, mio genero e i due bambini, purtroppo mio cognato non scende, mia sorella non scende perché in effetti c'è troppo casotto, là poi ai 10, cosa fai? Dopo le 10 devo andare via, domani c'è il mio cognato e ciccia, così via, là. Purtroppo io stamattina stavo lavorando, domani è riposo, potevo lavorare però non ci vado, perché il riposo e lavoro sabato, poi c'è un'altra squadra che domani lavora. E così via, bacchino per Bauia, giusto, non c'è da fare. Siamo in passaggio, mi c'ero anche stamattina, ti ripeto, stamattina l'ho visto meglio, e mi sono avvicinato domenica, l'ho salito un apparecchietto mio di qua, con l'alimentatore, tanto per tenerlo sveglio, per tenerlo un po' a sentire la voce. Poi per intendere era un casotto, allora mi ha fatto la chiave della moglie, sono andato in garage, io sono ovviamente tutta la roba, perché come il bacchiglio è quasi un giorno, comunque c'è poco da sapere. ho preso l'antenna che usava lui nella, in macchina e da garage l'ho portata da sua e lo ci stavo dicendo. Allora, siccome non c'aveva il piedistallo per la flebo, diciamo, a casa, io ho preso, io ne ho uno qua a casa, un piedistallo, un treppiede che mio genere usa per la bicicletta, ho preso e l'ho salito e l'ho collegato l'antenna calamita, l'ho fissata a questo treppiede e poi l'infermiera gli ha attaccato la flebo in questo treppiede, diciamo, là. Fino a quando io andavo a Florencia di Giugno all'ospedale insieme a Lettino. E ho visto che con quella corrente di macchina c'era Gianni da più giù, adesso a Zanni oggi mi ha sentito, come segnale era molto basso, comunque mi ha sentito, andava bene. Solo che lui rimane, oh guarda, e lasciamo perdere giù, lasciamo perdere, non ce l'ha fatta, ha staccato tutto. Poi mi ho messo a caricare anche il portatile per il PMR, anche stamattina guarda, l'ho messo a posto, era tutto fuori frequenza. Gli ho sistemato lui con quella mano, che lo sai, c'è quella schiena del padre, che muove le mani così. L'ha mandato tutto in tilti, dunque stamattina ho preso, io nuovamente rimesso, l'ho rimesso, l'ho sistemato, c'era la sorella, adesso vedeva stasera, ce l'accendeva, ma poc'anzi io ho fatto chiamata, ma niente, nulla da fare. E sicuramente non ce la fa, non ce la fa. Vabbè, comunque ripeto, oggi l'ho visto meglio, oggi l'ho visto bello, i colori in faccia e così via, ma quando è arrivato tutta la settimana, guarda, ho provato la morte in fronte, l'hanno aggabbato, a me l'hanno ragato in una stanza, l'hanno ragato, senza mai essere nuda, sembrava un vecchio di 100 anni giù. Ok, vabbè, siamo in passaggio, ma è giovane, non è molto grande, già lo sai, là, diciamo, potrà durare un po' poco. Avanti giù. Ok, infatti non è così anziano. Mi dispiace veramente per Bacchissimo, ma veramente, guarda. Siamo stati sempre amici, siamo stati da tantissimi anni, da quando gareggiavamo, quando facevamo, praticavamo lo sport, l'atletica leggera, tutti e due, sia io che lui. Eravamo avversari di società, perché lui correva per le Acri, io ero per la Polo Sportiva Sassarese, per cui da allora eravamo ragazzi, avrò avuto 17-18 anni, forse anche di meno, sì che ne sono passati, sono passati 60 anni, ci conosciamo 60 anni con Bacchisi, poi veniva sempre a trovarmi in falegnameria ogni tanto. Scambiavamo quattro chiacchiere, mi faceva molto piacere tutte le volte che lo vedevo, perché devo essere sincero, Bacchisi è stato sempre un amico, io l'ho sempre considerato un amico, praticamente come un fratello, tutto lì. Purtroppo la vita, come ho detto poc'anzi, è crudele, la vita è veramente crudele tante volte, da un giorno all'altro uno nemmeno se l'aspetta, vabbè. E va bene che abbiamo tutti problemi, tutti, arrivati alla città, tutti quanti abbiamo problemi, però così di punto in bianco è ancora peggio, vabbè, pazienza, dai. Pazienza veramente, guarda, mi dispiace veramente, oh Mari, purtroppo è così, per me, ma chi se lo ripeto, è un fratello, vabbè, pazienza, dai. Purtroppo sì. Tu pensa, io ogni giorno io lo chiamavo con un cibo da lavoro, noi in campagna saliva e prendevamo l'aperitivo a un circolo che c'è vicino al garage suo, ogni giorno, poi già lo sai, noi ci conosciamo la vita, io non c'è nessun problema, per me anche se abbiamo un po' di differenza di età, però è più di un fratello, diciamo, là, un ultimo rapporto appunto. Tanto mi chiamavano a me, poi all'ospedale, infermiera, la moglie mi ha detto, lo chiamavo perché non è che la moglie faceva entrare all'ospedale. L'infermiera, il capo settore, il capo reparto, chiamava la moglie e diceva, chi è questo marino? Sempre a me chiamava, non c'è nulla da fare. E così a casa idem, io ho messo l'apparecchio, ho salito un apparecchietto da casa, l'apparecchio, l'alimentatore, proprio per non utilizzare la roba sua, perché non sono 25 anni, cioè, ognuno collega come vuole, proprio per a me per ascoltare, e non ti ricordare, l'ho messo il canale 10, che c'è più traffico e così via, ma niente da fare, anche stamattina io stavo collegando là, e mi ha detto no, lascia così il tuo staccato perché non stato per tocca, butta in terra, no, capito? Non c'è, ma non c'è, poco parole giù, c'è ma non c'è. E va bene, là, diciamo, siamo in passaggio. Ok, lasciamo due minuti di bianco, vediamo se no avanti giù. Ok. Vabbè, più di uno ce ne sarà all'ascolto, magari che non vuole entrare. Forse sta anche ascoltando anche lui la notizia, la brutta notizia purtroppo. Oh Madonna Santa, quest'anno è stato tremendo tutto, in tutto e per tutto. Non solamente a livello personale, ma a livello di amici, a livello di tutto indistintamente. A livello di lavoro, va bene che io non sto più lavorando, ormai sono in pensione da anni, però io mi considero sempre un lavoratore, perché non sono mai stato capace di abituarmi al tempo libero così. Prima uscivo tutte le mattine, almeno quello facevo, adesso da quando c'è questa pandemia non esco più, sono sempre a casa, esco solo esclusivamente in caso di necessità estrema, tipo che su io andare a prendere la pensione o perlomeno a fare la solita trafila delle visite che devo fare periodicamente, tutte queste cose qua. Purtroppo la vita, ripeto, è crudele, soprattutto quest'anno, il 2020, è stato un anno maledetto veramente, in tutto e per tutto. Ma comunque, cosa ci vuoi fare? Con chi te la vuoi prendere? Con nessuno. Il destino, solo il destino è il vero colpevole di tutte queste nesfatte. Oh, yeah. Vabbè, dai. Pazienza, dai. Riprendi, Marì. No, non c'è nessuno. C'è qualcuno in ascolto? No, non c'è nessuno che ha voglia di entrare. È così, Marì, purtroppo. Riprendi. Ok, siamo purtroppo così. Quest'anno è stato proprio, oggi speriamo il 2022 sta migliore, ma non pare che il 2021 chiudo tutto. Oggi c'è un casotto, ieri, lo sai, io dopo il servizio faccio un servizio, attivo un altro servizio, la plastica nei locali. In via Torotonda c'era il mondo, guarda, non ti dico, diciamo 2000 persone, ma poco ci mancavano, musica, nastro, sono scesi vigili, hanno bloccato tutto, poi ci lamentiamo, capito? E poi dice, ma stiamo brindando, ma sai, non si può brindare, non deve fare, non, niente da fare, purtroppo è così e basta, è un casotto. Stavano a lavorare stamattina dietro la tonda, sono passato, vedo che c'era un casotto, guarda, si vede le mani in testa. Avevo chiuso tutti i locali, avevo tutti chiusi qua, tutti la musica a palla, ma allora era normale, capito? Era un giorno normale, niente, nulla, non ho capito. E va bene, là. Dopo si lamentano che nel 2021 bloccano tutto, per forza. Via Tortona è un casotto, vai via Roma idem, vai ad Apparte Pesattola, ieri c'era un casotto che era ancora pazzesca, non so quante persone c'erano per Pesattola, nell'altro locale, guarda, ogni locale c'era macello, niente da fare, e va bene, la storia quest'anno è andata così. Il lavoro purtroppo è così, non si fanno, io ho bloccato a casa, giù. Io e tutti quanti eravamo bloccati, scusa, mio nipote a scuola sua già con la Poleno, con la professore, diciamo preso questo qua, diciamo che lui dopo non era negativo, noi tutti positivi. Mi ricordo mai, mia figlia ormai si è messa a casa, io ho 21 giorni. Dopo il terzo tampone è risultato negativo. Il secondo tampone mia moglie l'hanno perso, ha un letto un'altra voce, però è stato perso perché è stato perso. E l'altro è stato negativo. Sono andato a lavorare, sarà una settimana fa, e l'ho buttato a casa, non, buttato perché io stavo bene, non c'avevo niente. Io non mi sentivo, mangiavo tranquillamente, proprio no. Diciamo che devi stare proprio 20 giorni bloccato a casa, anche per i contagi e via, e aspettando l'autorizzazione della CS per darlo all'azienda, se l'azienda non si fa entrare nell'azienda per lavorare. Ma per il momento tutto a posto, e così via, allora, così passiamo la giornata. Avanti giù. Ciao a tutte e due di nuovo, dai. Ok, qua. Sì, beh certo, purtroppo così, ma lì purtroppo così, anche perché questa cosa sta durando troppo, siamo da gennaio scorso, non è una fesseria, sembrava una cosa di qualche giorno, qualche settimana, massimo un mese, e invece è durato già un anno questa storia, e mi sa che continua ancora per un bel po', visto considerato che non abbiamo niente di sicuro, anche se ormai c'è il vaccino, però il vaccino chissà se effettivamente è efficace, se riesce a bloccare questa pandemia. C'è molta indisciplina da parte della gente, la gente è molto indisciplinata, tu lo vedi, tante persone, nonostante le restrizioni lì, per gli assembramenti e anche per il fatto della mascherina, niente, non gliene frega niente, infatti anche ieri ho letto 120 multe, ha messo la polizia locale, cioè i vigili urbani, hanno messo 120 multe a queste ragazze, soprattutto lì nell'androne di Piazza d'Italia su dove c'è provincia eccetera, tutti facendo festa, bevendo, non è possibile, questi stanno rovinando l'umanità, stanno rovinando gente assolutamente come definirla, non la posso definire nemmeno molto molto pesantemente, perché sono la maggior parte sono tutti giovani, ma sono quei giovani che poi portano i contagi a casa dove ci sono i genitori, e poi i genitori escono e a sua volta contagiano anche loro. Purtroppo la pandemia non si blocca se non si sta molto attenti e molto riservati come chiedono quelli del governo per fare appunto mantenere le regole, ma comunque quello che va, pazienza. Avanti qua, hai sentito il bacchisio? Sì, stavo attendo al corrente Marino, ciao Marino, buonasera, ben ascoltato. Dice che io ce l'hai trovato meglio, vabbè, non è, no, è così ragazzino bacchisio. Cosa c'ha, l'età tua Giulio? Sì, più o meno così, forse un anno in più, non lo so di preciso, o forse un anno in meno, ma forse un anno in più, all'incirca la mia età, dai, siamo lì, pensa che eravamo corridori tutti e due in quegli anni 60, eravamo ragazzini praticamente, 60 anni fa, e pertanto, avevo 17-18 anni allora, fai il conto, adesso 78, sono già passati un sacco di anni, una vita intera praticamente. Sì, più o meno la stessa, lui correva per la Libertà Racli e io per la Polisportiva Sassarese, eravamo praticamente avversari, ma avversari di società, niente di particolare, anche perché eravamo di diversa categoria, nel senso che io facevo la marcia, lui faceva la corsa, per cui non eravamo dei veri avversari diritti sportivamente parlando, però diciamo che eravamo avversari di società, in quanto allora si correva e si faceva il punteggio, sia la marcia che la corsa, si racimolava un certo numero di punteggio e poi alla fine era la società che vinceva, chi aveva realizzato più punteggio. Ecco perché ti dico che eravamo avversari solo per quel motivo io, Claudio. Avanti. 5 celle. Vabbè. Avanti, Maria. E ok, ciao Claudio, ben sentito. No, c'è Gira come da te Giulio, c'ha 76 anni, un giovanotto, è un giovanotto, ci vado giù in campagna 4 volte al giorno, la mattina a mezzogiorno io lo chiamavo, saliva e ci prendeva l'aperitivo ogni giorno, e poi dopo le 2003 era in campagna e poi saliva. Non, guarda, non fumava, cioè, non fumava, non beveva, era tranquillo, qualche caffè, prima del caffè, adesso il caffè c'è un periodo, non ne sta più prendendo, ci prendeva il tè, era anche la sua, e quando andavamo diciamo, al circo, là vicino al magazzino dove parcheggia la macchina, si beveva il succo di frutta, si prendeva, e io prendevo il bicchiere di birra, tanto per cosa, ma... vabbè, là, purtroppo, oggi va meglio Claudio, oggi l'ho visto come, oggi diciamo che era bacchiglio, forse perché sta mangiando, sta meglio che la sua e così via. Di là, boh, l'hanno aggabbato. Io non lo stavo riconoscendo, non ti dico male, lo vedevo un giorno per ricordarsela con me, non lo stavo riconoscendo, un vecchio di 100 anni, proprio magro, la bocca tirata, bocca aperta, guarda, poi non sta neanche parlando, parla proprio anche un po' male, diciamo, dai. Tutto qua, benissimo, c'è mio nipote che mi sta chiamando. Ciao Claudio, ben sentito? Ciao in casa, buon Natale, buona te in famiglia. Ciao Giulio, ben sentito, mi ha fatto piacere. Buon Natale a te in famiglia. Saluto tutti gli ascoltoni e per me quello di là, ci vediamo domani se in casa, no? Avanti giù. Ok, ciao Marino, ciao. Grazie a te per la chiacchieratina, dai. Anche se la notizia, vabbè, me l'aveva già anticipata Graziano, però devo dire che mi ha fatto male, dai. Vabbè, dai. Scusa, Valice, mi ha fatto male. Già mi capisci, non c'è bisogno di ricordarlo. Ciao Marino, auguroni in famiglia a te e alla famiglia, dai, salutone, ci sentiamo nel prossimo, eventualmente domani, dai, avanti Claudio. Via. Ciao Mari, buona vigilia di Natale, speriamo bene, e fai tantissimi auguri a Marchisio, quando lo vedi da parte mia, ok, va bene. Ok, grazie a tutti, Giulia, non dite a me che vai uno zuddo, sono a parlare sono uno zuddo, tu sai, io succedo anche stamattina, infatti uscendo da solo e sono solo passato, e la moglie con il mio dovere se ne sta piangere, guarda, è disperata perché è tornato peggio di un bambino piccolino, diciamo, in poche parole, che avevo 10 minuti la chiama, e poi lasciamo perdere, là, purtroppo, era anche la malattia. Niente, voglio giuro di prendere, di nuovo saluto a tutti, anche gli ascoltoni, per me quella sia, ci vediamo domani, ciao a tutti. Ok, ciao di nuovo Mari, ciao, rinnovati gli auguri per il Natale, dai, saluti in famiglia, salutami tua moglie, ci sentiamo, alle prossime, fatti sentire domani eventualmente, sicuramente in radio ci sarò, almeno spero, e spero di riascoltarti, alle prossime, ciao ciao, avanti Claudio. E io, dai, d'accordo, ciao Marino, alle prossime, lo so, dispiace tantissimo, io ho avuto modo di frequentare la Bacchigia con la buon'anima di Tore, uscivamo tutte le domeniche assieme a prendere il caffè, ci andavamo in campagna, era una bravissima persona, è stato un bravissimo operaio, un bravissimo muratore, ha dato tanto, però purtroppo quando arrivano le malattie non c'è niente da fare. Io conoscevo molto bene quell'assessore regionale che è morto, Frongia, così in 2 mesi, tambala e tambala, è a terra, 60 anni, l'età mia, e vabbè, cosa vuoi farci, purtroppo. E così non c'è niente da fare. Purtroppo sì, per quello che dico, la vita tante volte è molto spesso crudele, purtroppo così, e ora come vuoi va. Non te la puoi prendere con nessuno, solo col destino crudele, aspetta. Oh, iaia, che ne so, le 8. Purtroppo così, io qua. Io tu sai, la moglie sta migliorando, sì? Sta meglio oggi. E così è, portata a fare la visita, però adesso deve ripetere il 4 perché ancora non è classificato bene, c'è ancora i punti, sta fasciata, cammina con questo piedone che gli hanno dato, praticamente che non appoggia solo il tallone ma non appoggia la pianta del piede, siamo qua. Peccato quest'anno, la pandemia, lei che è stata male, mia figlia che ha dovuto chiudere l'attività, insomma è un anno che mi ricorderò veramente, l'unico anno che sono a casa che mi ricorderò per quanto campo, caspita, perché veramente una perdita su perdita. E chi è che non ha colpito quest'anno? Questa pandemia ha colpito un po' tutti, chi più chi meno ha colpito tutti, no? Nessuno si è salvato, perché anche quelli che non hanno avuto il contagio, anche quelli hanno perso lavoro, hanno perso la libertà, hanno perso frequentare la parentela, lo prezzo tutto, gli amici, eccetera, eccetera, per cui quella lì è stata una condanna un po' per tutti, è stata questo anno, almeno a livello naturalmente più che meno. Certo, poi ci sono tutti i morti che sono andati via, purtroppo, tu immagina tutte le famiglie, la città che hanno avuto dei morti in famiglia, anche quello, niente ti sembra. Oh, yeah. Ripeto, è stato un anno tremendo, pessimo in tutti i sensi veramente, guarda. Non ti puoi muovere, non puoi salutare una persona, non puoi stringere la mano a nessuno, non puoi fare un abbraccio a un fratello, a una sorella o a chi che sia, un amico che magari non vede da un po' di tempo. Perché tutto questo, sempre a causa del Covid, accidente al Covid-19, ma chissà come ha fatto a venirne fuori, purtroppo è successo. E ce lo dobbiamo sopportare fin quando non si riuscirà a debellarlo, speriamo bene, speriamo che questi vaccini che hanno inventato, che hanno fatto, che hanno prodotto, che siano efficaci almeno, così incominciamo a ridurre i contagi, eccetera, perché quello è importante, incominciare a ridurre i contagi, perché solo quello che dà fastidio ed è molto pericoloso. Ma visto, anche ieri ho sentito, visto il giocatore, l'ex giocatore che aveva l'Inter, Bellucci o Claudio, ha preso il contagio e a causa di questo contagio, stando quello che si è letto sullo computer, sullo coso, gli hanno amputato tutte e due le gambe. Ma te ne rendi conto che la sorta di danno che ha fatto quest'anno questa pandemia, una cosa tremenda. Questa è la prima cosa che ho sentito, e tra l'altro non so se sia successo anche ad altre persone, ma per dire che questa pandemia è capace di fare anche questo, amputare le gambe, ragazzi, ad un uomo che era sano e mano in piedi, purtroppo è così, avanti qua. Aspetta, io Bellucci l'ho conosciuto personalmente, si è accorso a Sormani e a Bellucci, perché tutte e tre, non so se ce l'hanno ancora, ma avevano la casa lì a Stintino, a Capofalcone, la villa sua a Capofalcone, quando io ero ragazzo, anche le fotografie, avevo fatto un torneo lì perché io lavoravo a Roccarruia, non avevo tanto le Roccarruia, e quindi avevo la loggia lì, avevamo i bungalow lì, e loro avevano la villa sopra, avevamo organizzato un torneo di calcio, tutte e tre. Corso aveva la sua squadra, Sormani aveva la sua squadra e Bellucci aveva la sua squadra contro quelli che volevano, che c'erano iscritti, c'era l'Officina Turitana, c'era Stintino Calcio, ce n'erano parecchie squadre. L'ho conosciuto personalmente a Cipicchia, mi dispiace tantissimo, porca miseria, un bestione era, grandissimo giocatore, te le immagini, cioè andare a colpire le gambe, allucinante. E mia madre è andata in casa, mia madre ha l'ostopologi, cammina con la sua stampella, però è abbastanza, ha 86 anni, è sanissima di mente, lucida, maledetti, sente la sintonia bomba. Ha solo quelli di malanni, ed è rinchiusa, barricata in casa, no? Non vuole vedere nessuno, non ci può andare nessuno, cosa devi fare? Sono da febbraio che non la vedo, come non vedo i miei fratelli, mia sorella, nessuno purtroppo, e vabbè. Speriamo bene, Giulio, dai, speriamo bene. Ok, io ti lascio, ti auguro buona cena, buon tutto, buona vigilia di Natale in famiglia, perché altro non ti posso augurare, e ci sentiamo domani per gli auguri definitivi di Natale. Ok, sono già le 8:10 quasi, io passo dall'altra parte, iniziare a preparare. Ok, grazie delle due chiacchiere, Giulio, un abbraccio grande a te e famiglia, e un saluto e un augurio a tutti di una buona vigilia di Natale a tutti quelli che sono in ascolto. Ok, a te Giulio. Ok, qua io ricambio di cuore tutto quello che tu hai detto, e naturalmente rivolgendomi anche alla tua famiglia, che ci mancherebbe altro. Io ho visto poc'altro il messaggio che mi hai mandato, ti ringrazio per quello, e dopo te ne mando uno io simpatico anche di messaggio, tra l'altro ascolta, applico, perché è ridicolo da ascoltare, cioè è piacevole da ascoltare, molto bello. Io lo stesso ti faccio i migliori auguri di buon Natale e ci sentiremo domani, senz'altro, sperando sempre in buonissima salute. No, perché già lo sai, la vita com'è. Oggi ci siamo e domani no. E speriamo di esserci domani, dopodomani e molto a lungo in futuro. E chi lo sa. Comunque, la vita ormai non ci meraviglia più niente. È così e basta. Va bene, ciao Cla. Grazie ancora per il saluto e per la chiacchierata. Ci sentiamo domani, eventualmente. Ancora auguroni, buon Natale, dai, divertitevi stanotte, anche se siete in pochi, anche noi già siamo in pochi, non è che siamo in tanti, per cui più di tanto non si può fare. Quest'anno bisogna sopportare la situazione, è questa purtroppo. Ciao Cla di nuovo, buonanotte. Ciao Giulio, infatti altro possiamo fare che sopportare, dai. Ciao, buonanotte e di nuovo tantissimi tantissimi auguri, a domani, ciao. Buon Natale a tutti! Camila, Gemma, hola!